Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Paesa. Vi ricordate quella meravigliosa parentesi rosa nel DEF tra 2,5 e 2,6, che era lo 0,1 di PIL e che impropriamente veniva definito tesoretto e che voi giudicavate essere inesistente? Ebbene, orsù c'era, ma la utilizziamo per le pensioni. ...3,7 milioni di persone riceveranno il 1° di agosto un simpatico bonus. Chiameremo il bonus Poletti, va bene? Il bonus Poletti. Tutto attaccato. Come se non fosse niente, la frittata è fatta. Allegramente, nonostante il presidente, la frittata è fatta. Una tantum, il bonus. Allegramente, la frittata è fatta. Cioè, questo è un colpo di genio straordinario. Voi mettetela come volete, ma la gente che percepisce lo storytelling, la comunicazione, ma questa è... Cioè, vi devo 100 euro, ve ne do 20, vi do un bonus, una tantum. Ma come una tantum, un bonus? Ma sono soldi miei, penserà un pensionato. Ma che mi fai, quello che mi fai la grazia di concedermi dei soldi miei? Un po', neanche tutti. È il bonus Poletti. Orsù c'era il tesoretto, è il simpatico bonus. E questi 20 euro su 100 che vi devo dare, ve li do una tantum, mica rate nel giro di 4 anni, subito, così, cash, tutti, tutti. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Poi quando ogni tanto Renzi dice bonus Poletti tutto attaccato, vero Filippo, sei d'accordo? Si rivolge a Filippo Sensi, che è il suo portavoce, colui che segue tutta la comunicazione su Twitter. Il messaggio era hashtag bonus Poletti tutto attaccato, vai, scatenati su Twitter. Per chi non ha Twitter è un modo così per far passare il messaggio in maniera più così, no? Da storyteller, storyteller. Ma questo è un bennato veramente straordinario, dannata. Semplicemente come se non fosse niente la frittata è fatta. Allora, cari ascoltatori, sono le 6:28 minuti, ben svegliati, se siete svegliati, se siete ancora stropicciati nei vostri letti, non vi preoccupate, tutto normale, sono le 6:29 per l'appunto, anche se Carmelo Lauricella è qui già che combatte dalle 5 e Lorenzo Nespoli è qui che taglia file e salta a destra manca pure dalle 5:30 e quindi noi siamo qua, 24 mattino è già ben sveglia per voi. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Allora, che ne pensate? Colpo di genio, questo simpatico bonus che arriverà ai pensionati, non tutti e non tutto intero, ma una tantum, ma una tantum. Allora, qua abbiamo... Adesso io lo chiamo sempre direttore perché è un direttore, Cioè, oggi devo fare questa protesta ufficiale, mi è arrivata la rassegna stampa. e ci hanno fatto pagare la croce quotidiano, ma la croce non c'è più. Marione Adinolfi, Marione. Buongiorno, la croce c'è ancora, sì. C'è ancora nella versione digitale, ma non c'è nella versione cartacea, perché abbiamo subito proprio oggi la pubblicazione cartacea. Mannaggia, ma come mai? Ma come perché mai? Costava troppo, questa è la pura e santa verità, per cui, poiché costava troppo... Puoi urlarlo anche tu, la carta costa? La carta costa molto, però è bella, cioè, no, sai che io no, perché io do sempre il premio la carta costa, l'articolo più inutile sulla rassegna stampa. Allora, dillo, carta costa molto. Caccia un urlo così, la carta costa. La carta costa, mi piace così. Ma chi se ne frega? Vabbè. Allora, vabbè, ma siamo dispiaciuti, come quando... Vabbè, non si può neanche dire... Ho visto, insomma, sì. Ho notato i giornali anche, le testate hanno fatto titoli tipo mettiamoci una croce sopra, una X rossa sul nostro giornale. Ho notato il discorso. La rete si è un po' scatenata, no, in maniera. La rete non me ne frega niente. Mi è dispiaciuto di qualche ma di chi? Data, ma chi? Collega. Vabbè, ma se chi? Se fai una ricerca rapida su Google te ne accorgi subito. Paludate testate hanno deciso di titolare così. Devo dire che non è un... Ma online, perché voglio dire. No, testate paludate, non online. Sì, ma l'hanno fatto online, diciamo. Però, ma ti rendi conto? Cioè hanno goduto e hanno esultato? Hanno goduto, sì, proprio letteralmente insultato. Io penso una croce rossa sulla nostra testata, che peraltro continua a esistere, dimostra solo che abbiamo fatto un giornale che un pochino ha rotto le scatole, insomma. Questo è una cosa che mi interessa. Però non parlarne al passato, insomma, se no, sul web. Il cartaceo l'abbiamo chiuso, quindi è sicuramente una sconfitta, ci dispiace. Però il tipo di reazione mi è sembrato sintomatico del fatto che non erano giornali irrilevanti, diciamo. E vabbè, costa troppo, è la pubblicità. Guarda, ti presento una persona. La collega. No, adesso, problema, no, diciamo. non voglio adesso accomunarvi in questo destino, ma noi l'abbiamo conosciuta all'epoca in cui dirigeva la Padania, la nostra. O tu Aurora, portami la luce. Tu Aurora, portami la luce. È la nostra, Aurora, ti abbiamo... No, che meraviglia, no, oddio, Ramazzotti era un pochino più empatico, però no, bello. Ma è battiato, dai. Sarà l'Aurora. Tu qua chiedi e noi eseguiamo. Vedi, soddisfate il mio desiderio, anzi lo prevenite. Un buongiorno a te, Milan, un caro saluto agli amici di Radio 24, un saluto ad Adinolfi. Hai visto? Che ha bisogno un po' di storyteller oggi. Ha bisogno di storyteller, no. Per raccontare quello che gli è successo. Bastava che mi faceva una telefonata e gli spiegavo io che la carta costa. Vabbè, effettivamente un po' così. Poi addirittura da voi costava dal partito. Vabbè, no, niente Aurora, adesso non volevo. Però... È una legge dello Stato del 1990 che ha consentito all'editoria, sì, è vero, di partito, ma anche vicino al mondo dell'associazione, ai territori, di sopravvivere, di una legge. Ma, però Marione, anche tu potevi, non so, registrare qualche testata di qualche movimento? Noi potevamo fare quello, abbiamo scelto di non chiedere. Ma no, ma tanto è svuotato quel fondo lì, ma vedi che qualcosina gli dai consigli per le cooperative c'è ancora. Per qualcosa. Ancora. No, ragazzi. Beh, qualche sgravio fiscale, dai, su. Sì, però quel fondo lì si è esaurito. Vabbè, cioè, quindi Marione, niente, il destino era segnato. Nel dicembre 2014 possono beneficiare di quei contributi perché si è svuotato e termina dicembre 2015, ma sul 2014. Vabbè, dai, comunque, Marione, manteniamo l'ottimismo adesso, non è che dobbiamo... Sì, certo. No, non siamo morti, quindi questo vuol dire che... Però c'è un piccolo problema. Come faccio io adesso a fare il quiz e farti chiamare sul cellulare? Beh, continuo a leggere, grazie a Dio, un po' di migliaia di persone continuano a leggere. Quelli che sono facile. Già abbonati alla croce digitale possono telefonare. Questo già alleggerisce, ecco. Diciamo. Ma Milan, ma scusa un attimo, ma scusa, sì. Non puoi dare il numero di Poletti ai pensionati in ascolto? Magari interessa più il numero di cellulare del mio Poletti. No. Sarebbe, credo, un vago reato, un vago sentore di reato. Un numero ogni volta a casa di uno che ci sta così. Esatto, sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. Ma potremmo farla questa cosa. Certo, non sarà facile trovare trovare qualche matto come Adinolfi che dà il suo cellulare in diretta, ma insomma, a proposito possiamo procedere, certo, Marione? Certo, potete sempre telefonare per solidarietà, insomma, con la Croce a 334 37 98 534. Fatto parlare con voi in questi, molto di calcio si parla, no? Sì, sì, domani c'è la FIA di Coppa Italia. Ma, ma vai a Berlino? Vai a Berlino? Cercherò di andare a Berlino, sì. Cercherò di andare a Berlino. Cioè vuol dire se riesco con qualche telefonata a recuperare un paio di biglietti magari. Chiaramente, a Berlino ho visto, sono andato lì il giorno della Coppa del Mondo e l'ho vinta. All'Olimpico ero a Roma quando abbiamo vinto la Champions. Questa volta che è un po' dura, non vorrei essere costretto a un viaggio a perdere. Ma stai tranquillo, è l'anno della Juve, stai tranquillo, è l'anno della Juve. 1-0 1-0 gol di Bonucci al 78 di ginocchio, così, la vincerete così questa coppa. Va bene, allora... che dobbiamo dire? No, allora, sai che ha detto Poletti a proposito, Aurora, il tuo amico Poletti? Ha detto non è vero che ci siamo fatti lo sconto, oggi su Repubblica, ufficiale così, l'ho dovuta rileggere 45 volte. Senti, ma... Senti, storytelling e storyteller, siccome siamo al Parlamento, sai cosa dicono al bar del mio paese? Mica storytelling, casciaballa. Casciaballa, che è abbastanza internazionale, cacciaballa. Ecco, la traduzione è questa qui. Io capisco che tu sei un po' la Edo del renzismo, no, i rapporti con la Boschi. No, ma vabbè. Ma se ho iniziato dicendo che è una presa in giro, ma smettila, la Edo del renzismo. Però eccola, sono stati bravi anche ieri. Non sono la Edo del renzismo e non tantomeno la Edo della Boschi, peraltro. La piacerebbe. Da 278 a 750 euro ad agosto arriva, un bel assegno mensile. Simpatico, ha detto. Simpatico. L'ha detto lui, simpatico. Il legge l'hanno venduto bene anche stavolta. Non vorrei che fosse con l'inchiostro simpatico di quelli che poi si cancella e non rimane nulla. Ma vabbè, ma cosa? Allora, però, ecco qua, esce la Edo che è in me. Io ho detto da tempo che in realtà tutti fanno i sacrifici e tutti li devono fare, anche i pensionati. Tu, Marione, che ne pensi? Era l'unica cosa da fare per salvare i conti pubblici? Io sono convinto che la sentenza non abbia proprio senso. Fin troppo ha dato, io non avrei istituito nulla. Insomma, quindi il dato su questo è veramente... Cioè, io sono veramente preoccupato da un paese che è continuamente solo alla ricerca di denari per tutelare, diciamo così, la metà di paese che ha più garanzie e più tutele, piuttosto che preoccuparsi, quello sì, è il lavoro che il governo dovrebbe fare, di recuperare soldi per quella metà d'Italia. Sono circa 30 milioni di italiani nati dopo il 1970, quindi la metà abbondante dell'Italia, invece fa oggettivamente fatica, insomma. Qui ogni volta c'è una caccia a decine di miliardi di euro per tutelare esodati, pensionati, che hanno un monte garanzie molto più ampio, e non si studia per niente la curva oggettivamente drammatica, sia salariale che di prospettiva pensionistica, di quei 30 milioni di italiani che ho citato. Questo non è il problema vero nodale della struttura economica del paese. Sì, tra l'altro qualcuno dice che il vero obiettivo di Renzi è quello di modificare la legge Fornero, per andare in pensione più presto. Com'è che ha detto? Speriamo di no. Ma infatti, cioè, io dico, ma il mondo va tutto da una parte, cioè si lavora sempre di più. E Renzi ha detto dobbiamo permettere a una nonna di 62 anni di godersi il suo nipotino. Questo è il problema. Perché ma una nonna di 62 anni è attivissima. Cioè, la verità è qual è? Che purtroppo votano in totale prevalenza le classi più anziane. E quindi il mercato di riferimento è quello di chi vota. E dunque la risposta della politica rischia di essere legata a dimensioni di consenso elettorale. Vabbè, comunque arriva una richiesta e arriva un messaggio che è una gaffe paurosa, questa volta lo devo dire, del tuo amore recondito Enzo da Latina, cara Aurora Lussana. Allora, la richiesta intanto di un ascoltatore ci dà il numero di Aurora, e questo credo che sia una richiesta che potrò soddisfare solo privatamente, se mi scrive privatamente l'ascoltatore. Ma poi Enzo da Latina, che ti adora, fa una gaffe clamorosa. Buongiorno carissima Veronica, il vestito è tutto a posto? No, vero, non è Veronica Gentili. Enzo è Aurora. Non c'ho mica la dizione perfetta della pensatrice gentile, io no, non è proprio riconosciuto, sono io, no? Grave errore. Con la vero. Ti ha scambiato. Eravate lì ieri mattina. Sì, infatti. Si dica, faceva apologia di reato. Apologia di reato. Ah, oh, mamma. Sì, linciaggio mia. Di Salvini. Vi ho sentito. Addirittura. Milan. Se pensi che io non ti controllo, ho controllato. No, controlli. Sai che oggi il Fatto Quotidiano con Vauro fa una vignetta su Salvini. Ho visto, sì. Questa vignetta è questa. C'è il dottor, c'è Salvini ricoperto di uova, va dal dottore: Salvini, lei ha il colesterolo alle stelle, eh? Troppe uova. Solo che è pieno di uova ovunque. Fossero solo le uova, va anche bene. Ti hanno tirato i sassi, simpatici sassi. Figlioli di, cos'è che ha detto, magistrati, avvocati. Che sì. Verranno denunciati, hanno così questa passione. E vabbè, se uno tira un sasso venga denunciato, è un criminale. È un criminale e basta. Vabbè, vuoi dire qualcos'altro a Veronica Gentili? Poi le mandiamo il file. No, così, ma un po' inquietato, insomma, giovane intellettuale, blogger del Fatto, che insomma inneggia così alla violenza contro Salvini. Dai, inneggia la violenza, non è che inneggia la violenza. Però sì, il tema c'è tutto, Mariona Di Rolfi, tu che ne pensi? Tu che di violenza te ne intendi, perché è spesso lo verbale, perché vieni spesso attaccato, insultato. Ma io anch'io quando vado a parlare devo dire, ormai sono a 166 presentazioni nel mio ultimo libro, ogni volta devo trovarmi davanti minimo due volanti della polizia. Questo è un po' strano, sì, un po'. Insomma, c'è come l'idea che esistono delle posizioni che delle idee buone e delle idee meno buone. Hanno diritto di cittadinanza, altre posizioni hanno meno diritto di cittadinanza. Cioè, oggettivamente è così. Cioè, la reazione che c'è stata nei confronti del nostro giornale sull'annuncio della chiusura del cartaceo sarebbe inimmaginabile. Senza se la chiusura è l'Unità. Ci fosse stata una testata che faceva una bella croce sull'Unità e scriveva un commento, cioè era impensabile, insomma, no? Ma lo vogliamo dire adesso? Cadesse sul Manifesto, quante volte ci hanno rotto le palle, chiude il Manifesto, Dio, crolla la democrazia. No, però adesso me lo devi dire, perché se no non riesco a cercarlo in diretta. Chi è che ha detto mettiamoci una croce sopra? Dai, dillo! No, non mi va di citarlo, non voglio fargli pubblicità, però insomma, lo cerchiamo della buona adesso. Borghesia, diciamo, quelli coi soldi, insomma, quelli che hanno state online con i quattrini, insomma, per cui. Beh, ma sono quelli che vogliono il mondo globalizzato senza più croci, quelli. Quella roba, ma io non è il problema, io so benissimo che queste tematiche, quelle che affronto io, anche quelle che affronta Salvini, per carità, sono tematiche dirompenti che possono creare questioni. E mi aspetto l'attacco, come sai non sono uno che ha difficoltà a sopportarlo, ma non andare a tirarlo indietro, a dire che è legittimo che dicano quello che vogliono. Io non mi sono mai lamentato, non ho mai querelato uno in vita mia, nonostante abbiano scritto cose orrende, non contro di me, contro la mia famiglia, contro la testata LGBT che ha titolato su mia figlia di 4 anni, sua figlia sia chiamata bastarda, così insomma, di titolo, una testata, non un commento su Facebook. Allora, abbiamo trovato, Marione, che è lettera 43, sì, esattamente. Il dato di avere cose del genere è, secondo me, sintomo di un problema nel paese. Cioè, se Salvini si muove e ogni volta che deve fare una sua legittima attività di campagna elettorale deve avere le tassaiole, possibile che questo lo interroghi. No, ma infatti io la riflessione sul fatto che esistano idee di serie A e di serie B. No, ma per me è assolutamente una vergogna. Io non è una vergogna, è una cosa sostanzialmente intollerabile. Sì, è intollerabile, è una vergogna. Sotto c'è il sorriso. Sotto c'è il sorriso. Ma no, c'è l'idea, c'è la vignetta di Vauro, C'è il sottotesto che è in fondo un po' se ne merita. Questo è il sottotesto. Andate a tirare di più, quello è il sottotesto. Quello è il sottotesto, perché dobbiamo vincere noi. Comunque Enzo da Latina mi riscrive: sei una serpe, almeno potevi aiutarmi, sei invidioso. Sono invidioso. Comunque Enzo da Latina è come quello che manda gli SMS a tutti uguali, chiamandoli tutti amore, capito? Tu stavolta hai sbagliato mettendoci il nome. Esatto, è un errore tecnico. Esatto. Come stai, Veronica? Ti va bene il vestito? Mai usare il nome con le donne, chiamale tutte amore, non ti confondo. no? Tesoro, tesoruccio, tesoruccio, tesorino, amore, così chiamale così, ma mai il nome di battesimo, puoi fare delle gaffe clamorose, caro Manzo. Anche la Saluzzi manda i messaggi, questo. Non lo so, non lo so, domani glielo chiediamo alla Saluzzi. Io però devo andare al traffico, perché poi vi devo far conoscere un personaggio unico, incredibile, straordinario, l'uomo che sta terremotando le regionali. Avete mai sentito parlare di Gerardo Bevilacqua da Cerignola? No. Ho visto dargli un cartone a uno suo collaboratore, sì, meraviglioso. Ha preso a sediate il suo collaboratore e fa i comizi, in cerignolese stretto. Tra poco. Mamma mia, non ce la faccio più. E datemi questo benedetto traffico. 24 mattino. Salve, io non sono soltanto arrabbiata, sono letteralmente incazzata, perché lo Stato, per mettere a posto i suoi conti, prima ruba i soldi ai pensionati, dico ruba perché è la santa verità, e poi adesso vediamo Renzi con quella sua faccia di bronzo che dice in televisione che ci deve restituire soltanto una parte dei soldi. È una cosa di una vergogna inaudita. Sono andato a vedere, si è proprio fatta grillino, proprio preciso e perfetto e caso, saputello che sei tutto te. Milan, già il tuo nome è quello di un imbecille, sappi che le tue critiche mi danno molto fastidio. Milan, dica all'Aurora che Salvini è bravo, la stiglia de Martol. Signora Lussana, mi dia pure il suo codice IBAN, che le pago il viaggio di nozze, sarà un viaggio di nozze ancestrale, verso il pianeta Nettuno, così magari non torna più. Non è male andare a esplorare Nettuno, cara Aurora. Cosa c'entra con l'ancestrale? Mamma mia, ma quanta ignoranza che c'è in giro. Non è che tutti hanno fatto il classico, però. Sì, effettivamente non ho capito cosa vuol dire c'entra ancestrale. Studiare, leggere almeno una volta nella vita donne che corrono coi lupi, e lì capisce tutto delle donne. Ma tu su Nettuno ci andresti a fare un bel viaggio? La provincia di Como ha scritto un articolo sul matrimonio di Aurora Lussana. Aurora, possiamo dire con chi ti sposi? Ma sì, non è mica un clandestino, non è mica uno dell'Isis, eh. Comunque Mara di Olfi, tu non lo sai, lo posso dire io? Vado, ufficiale? Lo posso dire? Ma certo! Ah, va bene, è il deputato leghista Nicola Molteni. Marione, tu l'hai mai conosciuto, Nicola Molteni? L'ho conosciuto, l'ho visto pure a Piazza Pulita ieri. Era a Piazza Pulita ed era disperato? No, l'hai visto. Cercava con gli occhi altre ragazze. Cercava altre ragazze nel pubblico con gli occhi. Vabbè, un bel tocco di manzo, ragazzo. Ragazzo, complimenti. Vedi. Scusa, Aurora cosa meriterebbe secondo te? Un cesso di uomo? Non lo so. No. Belle si fidanzano anche con i meno belli. Lo so. Invece lei, per mantenere una stirpe bella, insomma. Ma io stirpe. Penso di essere così straordinaria da dovermi riprodurre, insomma, nel senso. Eccola. Però nel matrimonio in chiesa, no? Perché sarà un matrimonio religioso, sì, cattolico, anzi concordatario, così si dice. Insomma, l'auspicio è quello, insomma, di mettere su famiglia, che sarebbe anche ora. Allora, eccolo qua. Vi devo presentare però questo straordinario Gerardo Bevilacqua, che a Cerignola si aggira per comizi così. Non lo so, la politica tremano. Perché tremano? Perché hanno fatto troppe schifezze. Non abbiamo più credibilità, abbiamo perso l'immagine. La dignità di Cerignola. Che cosa ci stanno dando qua? La morte, la povertà, la miseria. Vabbè, ancora! Ce l'ho distrutto! Io non sono un politico! Io sono del popolo! A me la politica non mi interessa! Non mi interessa! Non faccio parte della politica, perché i politici fanno parte delle tasse! Mettono solo le tasse! Padre Pia ci diceva una volta, Padre Pia di Vittorio, un pezzo di pan, di vito, si ceda di vito, mangiamolo tutto quanto, e basta. Voi mi dovete credere a me, qui c'è mia madre, io sono cattolica, tenga Gesù Cristo o cattolico. Io parlo come venendo per me, perché io non so legge, sono in alfabeto, non parla bene, parla come ho fatto mamma. Parla come ho fatto mamma, Marione, però ha detto che è cattolico, eh. Senti, con che enfasi, lui ci crede. Che? Basta, è scomparso. Marione è scomparso. Però io dovevo spiegare che i cattolici non danno le sediate in testa ai collaboratori. Ah, ma ha detto che era di plastica. Ha detto era di plastica. A parte che prima gli ha dato proprio una sveglia in faccia. Quello, il concetto attorio è porgere l'altra guancia, non porgere sulla guancia. A schiaffoni. Vabbè, però non lo so. Ti salvi questi piccoli ritocchi, lo trovo. Ma avete capito? Hai capito, Aurora Lussana, il programma elettorale di questo Gerardo? Ma di che partito è? Ma no, ma secondo te, ma sarà no, di un partito? Sarà di un partito, non lo so. Se è candidato, non lo so, avrà una lista civica. Senti però ancora questa, e se non vinco la prima botta, basta. Guarda, facci il match la prima botta. Se è un valutaggio, non mi metti in show, un valutaggio non lo metti in show. Mi ritiro. O riesco la prima botta, o niente. Io ho capito che o vinco con la prima botta o a ballottaggio non me ne frega niente. Mi ritiro. Vuole vincere al primo turno. Voglio vincere al primo turno. Questo è il programma elettorale. Voglio vincere al primo turno. Che dobbiamo fare? Fortuna amministrativa, sono tra 10 giorni e fine la campagna elettorale. No, ma bravo. Io l'ho detto ieri. Meno male che a sto giro non voto. Tu, Aurora Lussana, vorresti votare? No, per Luca Zaia sì, vorrei votare. Mamma mia, sì, perché lui... No, e non voto. No, non si vota né in Lombardia per la regione, né nel mio paese. No, non voto. Non voto. Comunque, la voce della tua città, questa è la lista civica di Gerardo Bevilacqua. Questa è la voce della tua città. Okay. Vediamo se vince. Vediamo se vince. Ma c'ha diritto anche lui di parlare. Vabbè, allora ti faccio sentire la Fornero, così ti allietro la giornata. Eccola qua, la Fornero. Se fossi simpatizzante della Lega, potrei dire che a me è successo molte volte come ministro, ma anche dopo, che leghisti mi impedissero di parlare. Io vorrei che le persone sentissero Salvini, perché potrebbero capire molto meglio la pochezza, la superficialità, la faciloneria delle sue ricette. Capito? Fatelo parlare, Salvini. Sì, no, a parte che vorrei capire quando le è stato impedito di parlare all'ex ministra Mayra Impianta Fornero. Com'è che l'hai chiamata? Mayra Impianta. Sì, Mayra Impianta. Okay. non so, a me mi risulta che dei leghisti le hanno impedito di parlare. Non lo so. Sembra proprio un'altra casciabala anche questa qua. Oh, ha detto un'altra casciabala. Ma dove? Ma quando? Ma non lo so, ma lo so. Ma vedi che... Vabbè, tanto ormai non dice quello che vuole. Vabbè. Ho voluto il pensiero di... Comunque ha detto fatelo parlare Salvini, e così capite la pochezza. Vabbè, è la disfida Fornero Salvini, non ne usciremo mai. Vabbè, Marione, qua devo chiudere tu. Ma quindi adesso cosa fai? Cioè, ti prende sempre tutto tutta identico, la... Tutto identico, non è cambiato nulla, il giornale è identico. Cioè cos'è? www.lacrocequotidiano.it e c'è l'area abbonati dove scaricano il giornale come sempre, insomma, quindi quelli che sono tanto già sono abbonati, quindi è il nostro pubblico di sempre. Mm-hmm. Speriamo qualcuno in più dopo questa ondata, ma insomma, il nostro lavoro è stato esattamente lei, quindi continuiamo a fare incazzare, a fare tutti su Twitter e a prendersi almeno quello speravo fosse fila, perché no. Dovevo continuare a avere questo tipo di... E tu, Aurorina, ci lasci con la ricetta oggi in 10 secondi? Ah sì, no, niente. No, non si devo andare allora al mercato contadino del martedì mattina, perché non c'è a casa niente, quello che si trova si cucina. Va bene, mi sembra così. E allora, se siete pronti al 334-3798-534, risponde Marione Adinolfi tra 3, 2, 1 secondo, via. Amiche lettrici e amiche lettori, a comunque qualunque chi che sia, nella misura in cui progressivamente e spezzatamente, se mi rivoterete ci sarà, più pelo per tutti, qui ho scritto e qui lo leggo. Voci dal giro. Un saluto da Dario Ricci. Dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia torna a pedalare con una tappa tutta dedicata agli uomini sprint. Calma piatta come la tappa di oggi, una delle rare occasioni rimaste ai corridori veloci, una frazione davvero disegnata per loro, con un solo zampellotto, per dirla a Davide Cassani, nella parte centrale di questa decima tappa che da Civitanova Marche porterà il giro a Forlì. Si riparte con Alberto Contador in maglia rosa, alle sue spalle, staccato di soli 3 secondi, il nostro Fabio Aru. Terzo il tasmaniano misterioso Ricci Porta, 22, Michel Landa è quarto a 46, Dario Cataldo quinto a 1.15, mentre il colombiano Uran è ottavo a 2 minuti e 10. Oggi tappa per velocisti, domani tutti a Imola, dove sono abituati a vedere le ruote veloci. Nel 1968 videro sfrecciare verso l'Iride il dottor Vittorio Adorni, proprio ieri insignito a Parma di una laurea honoris causa in scienze motorie. Settimana che sulla carta si preannuncia poco appetitosa, fino a sabato, quando si disputerà tra Treviso e Valdobbiadene la cronomostra che con ogni probabilità strapazzerà il gruppo. Rimescolerà le carte prima delle montagne, prima dell'ultima settimana di corsa in alta quota, dove volano le aquile, e si spera possa volare anche Fabio Aru e non solo lui. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Civitanova Marche. Voci dal Giro, in collaborazione con... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente, vai su ingiroperlavoro.it, puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, pronti a leggere il giornale e parlare oggi ancora di pensioni. Avremo con noi il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei. Avremo con noi il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. E poi avremo anche altri ospiti. Ricordate per esempio la vicenda di questo omosessuale italiano che ieri raccontava la stampa è perseguitato da condanna a morte in Ungheria da parte di estremisti di destra e vive braccato. Sarà ai nostri microfoni per raccontare la sua storia e le sue vicissitudini. Insomma, parleremo di questo. Intanto i giornali. Martedì 19 maggio, comprensibilmente molti quotidiani aprono sul tema pensioni, così il Sole 24 Ore, pensioni, così si ricalcolano rimborsi e rivalutazioni. Per il Corriere della Sera il titolo è questo: ai pensionati da 754 a 278 euro. Repubblica, rimborsi, via al decreto, Renzi, cambiamo la legge sulle pensioni. Per il Messaggero, pensioni, le cifre del bonus. La Stampa, Renzi, cambieremo la Fornero, in pensione 2-3 anni prima. Per il Fatto Quotidiano, imbrogliano i disoccupati, solo una mancia ai pensionati. Il Giornale invece, la truffa di Renzi sulle pensioni, 50 centesimi di mancia. Libero continua in quella che vedremo tra poco la campagna contro i vitalizi milionari dei ministri tassatori. Mentre il Giorno ha un'intervista a Silvio Berlusconi, lascio se trovo un leader carismatico, cerco un nuovo Silvio. Questo è il titolo di prima pagina, mentre Avvenire si concentra sul Papa, né timidi né irrilevanti, questo è il dissenso del dialogo tra Papa Francesco e i vescovi italiani. Il Manifesto invece sulla situazione dei migranti in alto mare, questo è il titolo, con la foto di Mogherini e Gentiloni, vale a dire l'altro rappresentante per l'Unione Europea della politica estera, Federica Mogherini, e il nostro ministro degli esteri. C'è un po' di difficoltà, la vedremo, perché molti paesi si sfilano dopo aver detto sì alle quote, ora si sfilano per l'appunto. Allora, come dicevamo, Libero, proprio in questo periodo in cui si parla molto di pensioni, ha fatto una campagna stampa, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, in cui mette i nomi e i cognomi di quei deputati che hanno versato tot contributi quando hanno fatto i parlamentari e hanno già ottenuto in cambio dei vitalizi ben superiori rispetto ai contributi versati. Lo spread per alcuni è di 1 milione e più di euro. Oggi Libero si concentra sui ministri tassatori, cioè ministri che sono stati al Tesoro, da Filippo Maria Pandolfi a Francesco Forte, a Pietro Longo, Rino Formica, Giuliano Amato. Giuliano Amato ha ottenuto già 809.000 euro di differenza a favore suo, ovviamente, tra quanto ha versato, cioè 300.000 euro di contributi, e quanto ha ricevuto, 1.111.000 euro. Paolo Cirino Pomicino ha versato 300.000 euro e ha ottenuto 1.100.000 euro, quindi uno spread a suo vantaggio di 775.000 euro di vitalizio. Oppure Augusto Fantozzi, 60.000 euro versati, 332.000 ricevuti. Vincenzo Visco è quello che ha lo spread minore, perché ha versato 400.000 euro di contributi e ha ottenuto però un vitalizio di 463.000 euro, quindi 66.000 euro solo in più. Ma comunque Libero va anche a intervistare uno di questi che sono stati messi un po' alla berlina in questi giorni, Achille Occhetto, il segretario del PC della svolta. Occhetto piange miseria, pagina 4 di Libero. Il vitalizio mi serve, devo mantenere i figli. Così Occhetto: che dovrei fare? Sono anche pronto a restituire i soldi, ma vi assumete voi la responsabilità del fatto che finirei in povertà. Usa queste parole, finirei in povertà. Il mio assegno è di 5.000 euro, ma la mia unica fonte di reddito. Con questo mantengo i miei due figli che sono disoccupati perché non ho mai approfittato del mio ruolo per trovare loro un posto. Però ammetterà che questo sistema è sbagliato. Ma può essere, ma non è colpa di chi ne usufruisce. La cambiassero per i nuovi. Ma guardi che non si parla di toglierle lo stipendio, il vitalizio, ma di ridurlo. Ma bisogna dirlo prima, risponde Occhetto, così ci si attrezza in altro modo. Non sono pensioni, ma vitalizi. Permetteva ai parlamentari di fare politica senza rubare, senza arricchirsi. Io l'ho usata con questa razio. Controllate la mia dichiarazione dei redditi, non sono ricco. Vabbè. Quindi Occhetto, intervistato da Elisa Calessi, si difende così. Mentre viene intervistato anche l'ex governatore della Calabria, Agazio Loiero, sempre a pagina 4, da Franco Bechis, e dice: io reputo questa una battaglia assurda. Se volete fare una battaglia veramente sulle pensioni, fatela con quelle dei manager, davvero scandalose, o come quelle di molti giornalisti. E ride. E Libero risponde: guardate che l'abbiamo fatto Loiero, l'abbiamo fatto anche con Eugenio Scalfari, Enzo Bettiza, che prendono tanti soldi rispetto a quelli versati. E Bettiza scriveva su giornali vicini a voi, no? Ma che importa Loiero? Il problema è il vitalizio. Se si lucra 1.000.000 di euro rispetto ai contributi versati, c'è un problema, no? Vabbè, che vuole sapere? Trova giusta questa sproporzione? Sa, la condizione del paese è quella che è, quindi questi problemi esplodono. Però ora la Camera li ha aboliti, così la Agazio Loiero. Vabbè, li ha aboliti e quindi tutto a posto. Per il passato invece va bene così. Mentre voi magari siete sul treno in questo momento, su uno di quei treni pendolari un po' dove siete un po' pigiati tra convogli e carrozze un po' sporche, magari anche un po' in ritardo, magari fa anche troppo caldo o troppo freddo quando è inverno, troppo caldo quando arriva il caldo, e magari vi tocca leggere quello che è successo nel caso delle Ferrovie Nord. Il Fatto Quotidiano da giorni denunciava una campagna stampa le spese pazze di Ferrovie Nord. Beh, è successo che ora sono intervenuti i magistrati. Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, pagina 25: spese pazze con la carta aziendale, sospeso il presidente di Trenord Norberto Achille. Carte di credito, alberghi, l'uso di auto con carburanti e telepass, arredi ed elettronica, bollette di telefoni cellulari, pay TV, scommesse sportive. Contestandogli l'utilizzo a fini personali, soprattutto da parte dei due figli, di questi benefit aziendali, i magistrati hanno deposto di fatto Norberto Achille da presidente di Ferrovie Nord Milano, società per azioni quotata in borsa che fattura 300 milioni di euro l'anno, con 4.000 dipendenti, ogni giorno fa viaggiare in Lombardia 650.000 persone su 42 linee regionali e 10 suburbane. Achille, presidente e legale rappresentante della holding partecipata per il 57,5% da Regione Lombardia e il 14,7% da Ferrovie dello Stato, è stato raggiunto da una misura cautelare con la quale il giudice, su richiesta del pubblico ministero, lo ha interdetto per 6 mesi dall'incarico. L'ipotesi di reato è peculato E qui l'accusa contesta l'utilizzo di cellulari, un figlio per esempio e la moglie con i due telefoni cellulari aziendali, mentre sull'utenza aziendale del padre l'altro figlio avrebbe avuto facoltà di addebitare le proprie chiamate con 124.000 euro di totale. Uno dei figli avrebbe avuto in uso l'auto blu del padre, BMW serie 5 con annessi telepass, carburante e c'è poi il corposo capitolo delle carte di credito aziendali. 14.000 euro di abbigliamento, 30.000 di arredi ed elettronica, 8.000 tra abbonamenti internet e TV a pagamento, 3.700 di scommesse sportive, 17.000 euro di alberghi e ristoranti. Ma porca miseria, ma... Vabbè, resta fuori la questione invece di 124.000 euro di multe accumulate da uno dei figli alla guida dell'auto aziendale del padre. Così scrive il Corriere della Sera. E altro che mani sul volante, se siete in treno ovviamente posizione d'atterraggio di emergenza e mani sui braccioli, sui finestrini, lasciate stare i controllori per carità che non c'entrano assolutamente nulla, non sfogatevi con loro. Qui invece sul Corriere della Sera le mani sul volante... Io ho twittato anche che non voglio fare commenti. Questa notizia, che è una notizia piccola, a pagina 23, che ci fa tenere le mani strette sul volante, perché l'articolo che ci fa pensare di questa giornata, ho twittata questa notizia dicendo non fatemi fare grandi commenti, perché poi dopo le querele vengono a me. Il titolo è questo: pedofilo scarcerato abusa della stessa ragazzina. Succede in provincia di Savona, dove un pedofilo ha molestato una ragazzina di 14 anni che aveva già molestato quando questa ragazzina ne aveva 12. Molestata dallo stesso pedofilo, arrestato 2 anni fa, uscito dal carcere, ha ripreso a molestarla fino a quando ieri è stato arrestato per la seconda volta per lo stesso reato nei confronti della stessa ragazzina. Leggevo il commento sull'agenzia ANSA dicendo: ora dovrà spiegare qualcosa ai magistrati. I magistrati a noi, no? Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da... Made in Steel, l'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Alessandro Milan, il ministro Boschi dell'informazione. Dai, dacci dentro, dai! Vabbè, caro ascoltatore, fai il bravo alle 7:33 minuti. Allora, le pensioni è il tema principale, ovviamente, della giornata di oggi dei giornali. Ieri Renzi si è presentato in conferenza stampa e devo dire un po' ha stupito tutti. Il Corriere della Sera racconta con Antonella Baccaro a pagina 2 che ha stupito lo stesso ministro Poletti che era al suo fianco. Quando ha definito i soldi che arriveranno ai pensionati il bonus Poletti. Ma come bonus? Cioè sono soldi che un pensionato dice me li devi ridare. Cioè è come dire mi devi ridare 100 euro, me ne dai 30 e mi dici anche che mi dai un bonus. E me lo dici anche dicendo un simpatico bonus, ha usato queste parole il Presidente del Consiglio, e ve lo do una tantum, come se fosse una grande concessione, il che racconta nei giornali ha stupito un po' tutti. No, è la comunicazione, bellezza, com'è che si chiama? Storytelling. Allora, scatta il rimborso una tantum, primo sì all'uscita flessibile. Allora, tanto tutti i dettagli di come e quanti soldi verranno dati li trovate sul Sole 24 Ore. Davide Colombo e Marco Rogari con precisione raccontano, anche se ieri il decreto non era ancora a disposizione, però si può evincere dalle parole del Presidente del Consiglio che ci sarà un una tantum da 278 a 750 euro. L'impatto sui conti pubblici è 2,18 miliardi di euro nel 2015, questo è quello che ha detto il Presidente del Consiglio. E poi ci sono tutte le cifre degli adeguamenti del 2016. Eccolo qui lo stupito Poletti che in realtà su Repubblica fa un'intervista, intervistato da Roberto Mania a pagina 3, difende totalmente questa decisione. Intanto dice parlo di staffetta generazionale e aggiungo, non è vero che ci siamo fatti uno sconto. Così il ministro del welfare e del lavoro Poletti. Non è vero che ci siamo fatti lo sconto. Ci siamo assunti la responsabilità di decidere e non fare giochetti come non raramente è capitato in questo paese. Non abbiamo trattato i cittadini come se non fossero in grado di comprendere. Abbiamo detto con chiarezza quello che si poteva fare nel contesto dato. Lo abbiamo fatto nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale e nelle compatibilità economiche possibili. Sì, ma avete dato 2 miliardi rispetto ai 18 stimati. Sì, ma i 2 miliardi e 180 mila che costerà il pagamento degli arretrati vanno aggiunti 450-500 milioni che dal 2016 ci costerà ogni anno l'indicizzazione dei trattamenti finora bloccati. Come cambierà questa indicizzazione? E Poletti annuncia: adotteremo lo schema del governo Letta. Se avessimo adottato il sistema in vigore prima della Fornero, avremmo dato più soldi alle persone con le pensioni più alte e meno a quelle con le pensioni più basse. Noi ribaltiamo il modello. Chi prende meno avrà una rivalutazione maggiore. Chi prende di più avrà una rivalutazione minore. È una scelta di equità. E poi l'annuncio anche, che è l'annuncio forse più importante al di là dei soldi restituiti, del governo che vuole cambiare, modificare la legge Fornero. Questa notizia forse passa in secondo piano, non troppo, perché i giornali dedicano a questa notizia ampio risalto, ma certo tutti si concentrano sui soldi che verranno restituiti, ma anche Poletti dice vogliamo cambiare la legge Fornero. I correttivi sono questi: sono soddisfatto che questo tema siano all'ordine del giorno. Ritengo che nella legge Fornero, dice Poletti, ci sia un elemento di rigidità strutturale che non è utile. Nel nostro paese ci sono persone che vorrebbero andare prima in pensione sapendo che questa scelta potrà richiedere loro un sacrificio. E alla domanda cruciale, cioè da che età si potrà andare in pensione, risponde Poletti: è presto per discuterne, dovremo fare tutte le simulazioni necessarie. Ma l'obiettivo è questo, cari ascoltatori: Renzi e il governo vogliono cambiare la Fornero. Renzi ha usato anche questa frase, ha detto: se una donna di 62 anni vuole fare la nonna e godersi il nipotino, può poterlo fare. Rinunciando magari a qualcosa, rinunciando a 30 euro, perché no, ha detto Renzi. E infatti Roberto Giovannini sulla Stampa, pagina 3, racconta: in pochi ci hanno badato, l'attenzione generale era concentrata sulla patata rovente del decreto legge sui rimborsi, ma ieri Renzi ha annunciato la riforma della riforma delle pensioni di Elsa Fornero. Per la precisione, per la prima volta Renzi ha detto di essere intenzionato a rendere aggirabili le rigidissime barriere che oggi obbligano un lavoratore che vuole andare in pensione a dover aspettare di avere 66 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi, oppure di aver maturato almeno 42 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. A sentire il premier si potrà perfino andare in pensione a soli 61 anni di età, anche se su Repubblica abbiamo visto Poletti non fa accenno agli anni, ma avendo detto Renzi, se una donna a 62 anni preferisce godersi il nipotino, può farlo, insomma, si deduce che potrebbe essere questa la soglia, 61. In pensione prima, l'ipotesi dei 62 anni con assegno ridotto, è anche il titolo del Messaggero. Questa dunque è la modifica forse in arrivo. Comunque sulle pensioni, sul Sole c'è tutto, tutti i dettagli. La politica invece, ieri ha preso la scena Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, che è stato contestato a un comizio da una persona che è stata fermata, è stata bloccata anche con fare molto, molto, ci sono tutti i video, molto energico da parte di guardie del corpo e carabinieri. Si tratta di un uomo di 44 anni che è già conosciuto alle forze dell'ordine, già era presente in comizi passati di Berlusconi. Con fare così un po' aggressivo. In ogni caso, la notizia politica del giorno è che Silvio Berlusconi ha detto al comizio a Saronno in Lombardia: ormai sono fuori dalla politica. Poi ha un po' cambiato dicendo: sono fuori da questa politica, cioè non vuole il teatrino dei politicanti, quello che definisce lui. Comunque oggi Silvio Berlusconi rilascia un'intervista. È Antonella Coppari che lo intervista per Il Giorno. Berlusconi: resto in campo, ma se trovo un degno erede, puntini puntini. Allora, cosa accade dentro Forza Italia? Berlusconi: come dicono i cinesi, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce silenziosamente. Aperta parentesi, cita già i cinesi, evidentemente il Milan è proprio ormai in mano ai cinesi. Comunque, chiusa parentesi, io capisco ma non condivido, dice ancora Berlusconi, l'attenzione dei giornali a fenomeni assolutamente marginali rispetto alla realtà di Forza Italia. Poi parla comunque di una campagna elettorale di difficoltà. Ma mi aspetto nelle regionali di vincere e confermare i nostri due bravi governatori uscenti, Caldoro in Campania e Zaia in Veneto. Dunque, ascrive a Forza Italia Zaia, in realtà al centrodestra. E speriamo in altre regioni di speriamo in belle sorprese. E qui arriva il clou. Ma senta, presidente, non è stanco di fare politica dopo 20 anni da protagonista? Non sono più un ragazzino, ma mi sento obbligato a rimanere in campo finché non ci sarà qualcuno che mi potrà sostituire. Ma lei non è riuscita a tirar fuori un erede in 20 anni. Gli eredi, risponde Berlusconi, non si possono tirare fuori. Il carisma uno o ce l'ha o non ce l'ha. E ho dato possibilità a tanta gente, ma nessuno ha avuto la spinta carismatica. E poi conclude Berlusconi questa intervista: al Giorno ha indicato il Partito Repubblicano come modello di contrapposizione al Partito Democratico. È ciò che manca in Italia, un movimento leggero, strutturato come un comitato elettorale al quale aderiscano tutti gli elettori che non votano per la sinistra. Comunque Berlusconi dunque dice: resto in campo finché non trovo un erede. Repubblica si concentra sulla exit strategy di Berlusconi con Tommaso Ciriaco a pagina 10, cioè blindare aziende e partito e sostenere come negli anni 80 qualcuno, il riferimento ovviamente allora era Craxi e oggi chissà a chi. Vabbè, invece bollo come una butade, ma forse non lo è, quello che Maria Teresa Meli scrive sul retroscena di pagina 14 del Corriere della Sera, cioè la sinistra alternativa a Renzi, un po' i civatiani, i landiniani, anche se Landini non farà un partito, i Fassina, forse puntano a un uomo forte anti-Renzi. E la butada è questa: rispunta, e sarà la 500ª volta, il nome di Roberto Saviano. Dico, ma Roberto Saviano come leader politico anti-Renzi. Questa politica è proprio una maionese impazzita. Ne è vero, Mauro Meazza, ne vuoi un po'? Vuoi buttarti anche tu nel mucchione, nel mischione? Dai, facciamo. Buongiorno. Facciamo un bel partito, Forza Milan? Via, dai. Simpatico Alessandro, se vuoi fare un partito, sappi che difficilmente avrai il mio voto. Vediamo dove ti vai a collocare. Partiamo malissimo. Volevo, scusami, posso puntualizzare una cosa da antipatico? C'è un'ulteriore notizia sulle pensioni. Sì. Non so se mi sono distratto io, che dal giugno vengono pagate il primo del mese. Ah, no, giusto, fai bene a dirlo. Lo segnaliamo sul Sole 24 Ore, come già hai ricordato, ci sono molte spiegazioni su questo bonus Poletti. Quindi simpatico. Simpatico bonus Poletti, però appunto anche con tanto di calcoli, domande e risposte sulle varie situazioni che si possono presentare, c'è anche questa notizia che non mi sembra trascurabile: pagamento delle pensioni il primo del mese da giugno. Vabbè, tra la prossima pensione, insomma. Un piccolo dettaglio che ho voluto puntualizzare, mi perdonerai caro Alessandro. Poi ho visto che avanza molto velocemente la Bad Bank, stai ripassando l'inglese, sai che devi... Bad Bank. Esatto, e tra l'altro continuiamo invece in norme a proposito di inglese gli approfondimenti sulla voluntary disclosure, ma se sarebbero i tuoi due urini che hai lasciato di là e non l'hai detto mai al ministro Padoan, e dopo il simpatico ministro si scoccia. Però oggi parliamo dei problemi. È simpatico anche Padoan? Ma lo so, per me potrebbero essere tutti già simpatici. Due, beh, simpatico bonus Poletti, vabbè. Perché, ma il bonus che è simpatico o è il ministro? No, il bonus. Ah, il bonus, ok, simpatico bonus. Allora, vabbè, anche lo stipendio, volendo un simpatico stipendio, potrebbe essere così. Senti, la simpatica agenzia delle entrate, invece, prendo da norme e tributi, scriverà delle simpatiche mail o lettere a chi avesse già inviato il 730 precompilato, ma con errori dovuti proprio al database del fisco. L'ho letto, indovina un po' dove, su norme e tributi. E sempre su norme e tributi, non è importante che capiamo tu ed io, Alessandro, come sempre, ma deve capire chi sa. ti informiamo che è stata rilasciata la versione del software degli studi di settore, che era molto attesa questa versione del software, perché bisogna poi andare a fare le dichiarazioni dei redditi, simpatiche dichiarazioni dei redditi. Non l'inchiostro simpatico, però. No, simpatiche nel senso che sono simpatiche per la simpatica Agenzia delle Entrate. Simpaticamente ieri però è stato anche esaminato in via preliminare un decreto legislativo importante, perché dal 2016 dobbiamo recepire delle indicazioni europee, cambiano le regole per i bilanci. Uh-huh. Anche qui simpaticamente non dobbiamo capire tu e io, ma chi deve capire capisce leggendo le pagine di norme tributi. Allora, in chiusura, anche se avrei molte altre cose da dirti, ma devo andare a leggermi tutti questi calcoli sul simpatico bonus nelle nostre simpaticissime pagine, naturalmente, ti voglio dire, ho visto nelle pagine di finanza simpatiche una notizia che mi sembrava una non notizia: il calcio è in crisi. Sì. Poi ho letto meglio, in realtà non parlava della tua squadra e insomma neanche della mia, parla proprio in generale della Serie A italiana. Il lavoro di Gianni Dragoni presentato sui debiti delle società di calcio che vabbè, revochiamo allora gli ultimi 4 scudetti. Sì. Vabbè, guarda, io a questo punto non so che dirti se non augurarti un simpatico traffico. Alessandro Milan, il master chef dell'informazione mattutina, taglia, trita, affetta, mescola, sminuzza, impasta, ed ora tenetevi forte sul volante. Alessandro Milan canta! No, oggi non canto intanto, cara ascoltatrice, perché Libero non ha pubblicato. Però è straordinario questo, com'è, sminuzza, affetta, vabbè. Allora, grazie, davvero la passione si sente, come si suol dire. Allora, parliamo di scuola. È stata approvata una prima norma, quella che era la più discussa, sui cosiddetti superpresidi o presidi sceriffo, per chi contesta la riforma della scuola, o presidi responsabili e valutati, come risponde il ministro Giannini. Diciamo che c'è stata qualche contestazione, per la verità pochi contestatori, ma mercoledì, quando c'è il giorno del voto finale, scrive il Corriere della Sera, promettono saremo migliaia a protestare contro questa riforma della scuola. Ovviamente la scuola fa dei passi nell'approvazione in aula parlamentare e ci sono l'esame di questo provvedimento. Vi segnalo la pagina di Gianna Fregonara, pagina 19 del Corriere della Sera, proprio si concentra sui ruoli dei dirigenti. Allora, secondo un sondaggio di orizzontescuola.it, pensate che addirittura il 96% degli studenti interpellati dà giudizi negativi sull'affidabilità dei dirigenti. 96%, praticamente tutti. Un risultato ingeneroso, ingiustificato. È come se i presidi non avessero un'identità propria e debbano essere definiti ricorrendo ad altre categorie: sindaco, manager, amministratore delegato, addirittura sceriffo. Così si lamenta Giorgio Rembado, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. In realtà si attaccano i presidi per attaccare il sistema di valutazione e premialità, dice ancora Rembado, che è oggetto di antichissime battaglie nella scuola. Tra l'altro il Corriere fa notare che anche nella classe dove insegna Agnese, la moglie di Matteo Renzi, presidente del Consiglio, c'è stato il boicottaggio dei test Invalsi. In seconda B dell'Istituto Superiore Balducci di Pontassieve, anziché svolgere l'esame di italiano, gli studenti hanno scarabocchiato i fogli dei compiti con disegni, invalidando il test Invalsi. E vabbè. Allora, concentriamoci in questi 3 minuti finali sull'estero, dove intanto la questione migranti, dopo la Gran Bretagna, la Danimarca, l'Irlanda, vari paesi dell'est Europa, l'Ungheria, la Francia, ora anche la Spagna è contro la ripartizione dei migranti in Europa. E quindi, come scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, c'è il rischio del fallimento vero e proprio. Intanto c'è stato però il primo sì dall'Europa alla missione navale, una missione navale che dovrebbe durare 12 mesi per contrastare questo, questi scafisti che fanno traffico di esseri umani, con quartier generale che sarà basato a Roma. Il comandante sarà l'ammiraglio italiano Enrico Credendino. Questo è tutto sulla carta, però, attenzione, perché è arrivato questo sì dall'Europa, ma finché non ci sarà una risoluzione dell'ONU non si potrà fare nulla. E oggi il Corriere della Sera, pagina 11, anticipa questa risoluzione dell'ONU con Marco Galluzzo. Il Corriere è entrato in possesso di questa bozza della risoluzione, che contiene 6 pagine. C'è anche una lettera del governo libico di Tobruk che chiede assistenza. La missione durerà 12 mesi. C'è un nodo sui confini, perché la domanda è: si potrà agire in acque territoriali libiche oppure non bisognerà violare quel confine e agire solo in acque internazionali? Che presuppone una seconda domanda. Uno intercetta una nave piena di migranti in acque internazionali, cosa fa? Cosa fa? La rispedisce al mittente, la fa tornare, questi magari buttano per ritorsione i migranti in mare, cioè che succede? Sono questioni pratiche. E poi Marco Galluzzo spiega bene che ci vuole questa risoluzione dell'ONU, e quindi significa avere il disco verde da parte di Mosca, della Russia e della Cina, che siedono nel Consiglio di Sicurezza e che sono le più restie a questa missione. Dunque si vedrà. Si vedrà. Vi segnalo anche solo, non c'è tempo per leggerlo, un reportage straordinario scritto dall'Independent e pubblicato da Repubblica di Patrick Cockburn da Erbil, nord dell'Iraq. Racconta la caduta di Ramadi, che è una città strategica. Ramadi, a 100 km da Baghdad, è caduta in mano all'ISIS e dunque ora si teme per Baghdad, capitale dell'Iraq. È un reportage su Repubblica, pagina 16-17, sulla situazione in Iraq, molto molto tesa. Eccoci qua, è entrato Lorenzo Nespoli in studio. Allora siamo in diretta su Periscope per raccontare la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi siamo sul Fatto Quotidiano, che a pagina 3 dedica tutto un articolo di colore su Maria Elena Boschi, il ministro Boschi. Boschi è il volto dolce e telegenico del nuovo potere. Daniela Ranieri racconta: deve essere dura fare a vita la bionda della classe. Se ti invitano al cinema è per farsi belli con gli amici, se ti chiamano alle feste è per far venire più gente, se c'è da andare a parlare col preside mandano te, confidando nei tuoi occhioni blu. E allora compiangiamo la ministra delle riforme, Maria Elena Boschi, che domenica è stata mandata al Foro Italico a premiare Novak Djokovic, vincitore degli internazionali. Ma chi se ne... Com'è? Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now... Alessandro Milan! Che devozino via fuoco! Milan, il cagnasso randaggio dell'informazione! Se fossi tua moglie, quante botte ti darei! Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu! Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la soluzione è stata annunciata da Renzi in persona per la questione pensioni, dopo che ormai, lo sapete, la Corte Costituzionale ha bocciato il blocco delle pensioni che era stato deciso dal governo Monti nella famosa legge Fornero. E allora, la soluzione di Renzi: verranno restituiti 2,18 miliardi di euro anziché i 18 che lo Stato rischiava, e il governo rischiava di dover restituire. Ad agosto verrà dato, non a tutti, ma un rimborso, una tantum, si va dai 278 euro netti che potranno prendere coloro che hanno una fascia di pensione tra i 2.500 e i 3.000 euro lordi al mese, fino a un massimo di 750 euro netti per le pensioni più basse. Sentiamo però Renzi. 3,7 milioni di persone riceveranno il primo di agosto un simpatico bonus. Chiameremo il bonus Poletti, va bene? Il bonus Poletti, tutto attaccato. Una tantum, il bonus. Allora, per carità, come sapete, cari ascoltatori, intanto vi do il numero per intervenire: 800 24 00 24. La comunicazione per Renzi, per Matteo Renzi, è tutto. Si chiama storytelling, no? Però, ecco, la mia prima perplessità, che girerò subito ai miei ospiti, è questa. Ma come? Definire un simpatico bonus, definito bonus Poletti? Secondo il Corriere della Sera, lo stesso ministro Poletti, che sedeva al suo fianco, è rimasto un po' spiazzato, un po' sorpreso. Bonus Poletti, soprattutto simpatico bonus. Intanto bonus ricorda quel bonus degli 80 euro, no? E poi, come dire, ma com'è un simpatico bonus? Ma... viva Dio, sono soldi, potrà pensare un pensionato, che mi dovevi restituire per in virtù di una sentenza e me lo fai passare per un bonus. E poi magari mi dovevi 100 euro, me ne dai 30 e mi dici pure che mi dai un bonus e una tantum, eh? Cioè, capite che sembra quasi che io debba ringraziare. Però, insomma, partiamo da qui per discutere quello che è successo e come si risolverà la grana pensioni. Saluto il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Buongiorno direttore, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Così, grazie. Come saluto Filippo Taddei, che è il responsabile economico del PD. Buongiorno, professor Taddei, eccoci. Buongiorno a lei. Allora, Taddei, intanto, insomma, come lo percepirà un pensionato che si sente definire, vi diamo questo simpatico bonus Poletti? Ma guardi, ha letto le battute, che possono essere più o meno felici, la questione poi è molto semplice. Sono da una volta che si definisce che cosa pagare, sono due cose da fare. Il primo è corrispondere gli arretrati, no? E gli arretrati come o si pagano a rate o si pagano tutte insieme. Il governo ha deciso, in realtà abbastanza platealmente, abbastanza per chiarezza e trasparenza, di pagare tutti gli arretrati tutti insieme al 1 agosto. Quindi possiamo chiamarlo bonus o possiamo chiamarlo pagamento degli arretrati. Fatto sta che in un pagamento unico saldi tutti i debiti col passato. Sì. Poi naturalmente devi anche occuparti del futuro. Dal 1 settembre infatti c'è l'aggiornamento dei trattamenti pensionistici coinvolti nella sentenza. Che però, lo dico qui per massima chiarezza, perché nel paese c'è oramai si è diffusa questa idea che la sentenza coinvolgesse i pensionati nel loro complesso. La sentenza non coinvolge il 70% dei pensionati più poveri di questo paese, quindi 7 pensionati su 10 non sono minimamente toccati da questa sentenza, sì. E per gli altri è stata decisa questa forma di restituzione. Però perché, professore, non si poteva dare indietro tutto? Si dice, e Renzi l'ha detto, 18 miliardi dovevamo dare, ma dovevamo tagliare la scuola, il welfare, la sanità. Ma perché? Uno dice, in 800 miliardi di spesa pubblica non si può tagliare qualcos'altro e dare tutto a tutti? Ma guarda, innanzitutto dobbiamo metterci d'accordo su quello che è il tutto. Il tutto che cos'è? È definito dalla legislazione vigente, cioè dalla legislazione che era stata fatta, diciamo, dall'ultimo aggiustamento di stabilità da Letta. Bene, quella legislazione prendeva in considerazione che la sentenza della Corte non esistesse. Quindi adesso io vorrei chiedere a lei, come qualunque radioascoltatore, qualunque capo di famiglia, che fa un budget familiare, che pensa e programma le spese della propria famiglia, tenendo in considerazione tutto, no? Spese per vacanze, sì. I figli, quello è. Se improvvisamente gli arrivasse addosso una sentenza che dice: guarda, su tutti i tuoi calcoli erano molto interessanti, però sai, ti mancava una piccola cosa che devi pagare un X in più. Devi pagare una somma. A me, io capisco la difficoltà, effettivamente. Cioè, vi siete trovati a gestire una situazione che deriva dal passato ed è esplosa dopo 5 anni. Ecco. Ma aspetti, la difficoltà non è solamente tecnica, la difficoltà è in termini di equità. Come un padre di famiglia, a quel punto deve decidere, può dire: va bene, sacrifichiamo tutto il resto, sacrifichiamo la spesa per i bambini, sacrifichiamo le vacanze. Così lo Stato italiano deve decidere, deve fare politica. Fare politica con equità, perché teniamo sempre presente che in questi ultimi anni non è che solamente i pensionati sono stati penalizzati. Badate bene, qui parliamo sempre di un terzo dei pensionati, perché il 70% dei pensionati italiani hanno avuto l'aggiornamento fino al 100% più povero, ha avuto tutto l'aggiustamento. Ma in aggiunta a questo io ho 6 anni di blocco, lasciando da parte i personali di sicurezza, 6 anni di blocco degli scatti nella pubblica amministrazione. Sì. Sono sempre il paese dove la gente lavora perché io la seguo. Cioè, abbiamo gli insegnanti pagati poco, gli statali che hanno 6 anni di blocco di stipendio. Quindi lei dice anche i pensionati, voglio dire, consideriamo. Però, professor Taddei, ha detto alcune considerazioni già interessanti. Vorrei dal direttore di Panorama, Giorgio Mulè, una considerazione sia su, se vogliamo, la comunicazione di Renzi, ma vabbè, insomma. insomma, mettiamola lì. Quello che conta è quello che ha deciso, non tanto come lo ha comunicato. Direttore, quello che ha deciso va bene o va male? Ma quello che ha deciso è una decisione che è parziale, nel senso che va ad accontentare alcuni, o comunque a riconoscere un diritto che è la Corte Costituzionale, non un giudice amministrativo, cioè la massima espressione dell'osservanza della Costituzione ha detto, ma non è una sentenza che è applicata in maniera totale, è applicata in maniera selettiva secondo i criteri che ricordava prima anche l'onorevole Taddei. Quello che succede in Italia, ma l'ultimo caso è quello delle pensioni, è che oramai chi in questo paese ha uno stipendio, una pensione uguale o superiore ai 2.000 euro netti è riconosciuto e guardato come un ricco. Questo sostanzialmente in realtà è la rovina, scusate, la rovina di un paese, perché significa che è un paese che si condanna a non progredire, a non crescere, quindi spinge verso il basso e non fa in modo che chi ha di più possa avere di più, perché è visto come qualcuno che invece è da tassare, da colpire. Questo peraltro, il concetto di equità che prima diceva anche il professor Taddei, secondo me cozza in maniera clamorosa, stridente con quello che poi avviene a livello locale, perché il governo a livello nazionale si riempie la bocca con la parola dell'equità, usa a sproposito la parola bonus perché invece si tratta soltanto di un diritto, di una restituzione, e poi a livello locale penso alle tasse che in maniera indiscriminata si stanno elevando in tutta Italia. Il governo dice, beh, sono i comuni che non sanno tagliare. Beh, ai comuni non gli arrivano più i soldi dallo Stato, che in realtà, a mio giudizio, ma non soltanto mio, ma a quello molto più autorevole della Commissione Europea, dell'OCSE, eccetera, eccetera, non sa tagliare la spesa pubblica. Prova ne sono i 15 commissari e le figuracce che abbiamo rimediato anche con Cottarelli, con chi è venuto dopo, che ancora una volta ha annunciato chissà quali tagli. In realtà siamo incapaci. Ma infatti era questo il punto che dicevo, cioè io quello che contestavo alla visione di Renzi è la questione di dire perché tagliare la scuola, il welfare e la sanità. Esatto, dopodiché concludo, non pagare. È che c'è solo la TASI, perché poi ci sono 2.000 patrimoniali nascoste, c'è quella sui conti correnti, c'è lo 0,2, se qualcuno ha la sventura di mettere da parte 5.000 o 10.000 euro paga dopo aver pagato il 26% su quello che ha tristemente guadagnato. Insomma, c'è una montagna di odiose patrimoniali sparse che non è che vanno a colpire in maniera selettiva, no, colpiscono in maniera indiscriminata chi per una vita magari ha avuto, ripeto, la sventura, perché di questo si tratta, di mettere da parte due soldi, perché viene additato come il ricco e che invece ha 2.000 euro al mese che, come sappiamo oramai, servono per pagare un affitto, dare due soldi a un nipote o a un figlio e condurre una vita minimamente dignitosa. No, ma io due cose dico. Professor Taddei, è vero che vi è capitata tra capo e collo questa cosa, lei ha fatto l'esempio del padre di famiglia. È anche vero, e se vuole tra poco, e su questo secondo me Renzi ha ragione, vorrei far ascoltare tra poco quando dice coloro che ci accusa adesso politicamente sono coloro che hanno votato in Parlamento la legge Fornero, e quindi voglio dire adesso ci dicono restituite indietro tutto. Però continuo a non capire perché, professore, qualcuno per esempio fa un esempio, tagliavate due cacciabombardieri, vabbè lo so, è una semplificazione, ma per dire perché non si è andate a incidere a dire ok, tagliamo questo della spesa pubblica e restituiamo 18 miliardi, facevate anche una figurone dal punto di vista politico. Ma guardi, le dico molto semplicemente perché questo e questi ragionamenti denotano un paese che lavora a memoria zero, cioè che si sveglia questa mattina, e secondo me anche rispettosamente lo dico al direttore Panorama, il suo discorso lo nascondeva, che ci sveglia questa mattina come se nulla fosse successo e ti dice, ma scusami, è stato questo problema straordinario, ma perché non facciamo una piccola scelta straordinaria? La realtà è ben diversa, la realtà è che faticosamente ogni anno si produce una revisione della spesa, un taglio che comunque non è abbastanza, che comunque non è fatto sufficientemente bene, però si va avanti sotto quel profilo lì. Ora, io vorrei che fosse chiaro che quando si parla poi di riduzione della spesa, la riduzione della spesa la interpretano alcuni meglio di altri. Noi abbiamo un sacco di evidenza in realtà di alcuni comuni che non sono in grado e altri comuni che invece colgono l'occasione per dirti guarda, è stata molto dura, però noi ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a fare quello che facevamo prima e le abbiamo efficientato. E abbiamo scoperto, grazie a questa opera, all'obbligo che ci avete dato, del governo nazionale, che potevamo fare le stesse cose di prima risparmiando. Ho capito che c'è qualcuno che alza le tasse, ma c'è anche qualcuno che fa politica malamente. Però o noi decidiamo di essere un paese che, consapevole di tutti i suoi problemi, non criminalizza quelli che hanno più di 2.000 euro, perché non si è criminalizzato nessuno. però si riconosce il fatto che a me disperatamente, io sono affranto per le persone che guadagnano 2000 euro netti al mese, ma sono ancora più affranto per quelli che fanno 1300 euro al mese netti. Allora voglio chiedere agli italiani, se io ho un euro da mettere agli italiani, dove lo metto? Lo devo mettere ugualmente su entrambi o quell'euro lo metto più su quello che ha 1300 euro di pensione netta rispetto a quello che ha 2000 euro netti? Ieri il governo ha deciso solamente questo, ha detto una cosa alla palissiana: la situazione è grave, abbiamo poche risorse, abbiamo priorità in questo paese che hanno a che fare col futuro di questo paese. Pensate alla scuola, pensate a conferire, tagliamo tutto, ok, ma vogliamo conferire soldi in più sulla scuola? Bene, io per fare questo do 2 miliardi in più e 180 milioni alle pensioni, in più rispetto al passato, con una spesa pensionistica che è cresciuta sempre negli ultimi anni. In più, ma sì, ma sembra avere che il concetto ma in realtà la Corte Costituzionale ha detto che dovete farlo. No, attenzione, ma la Corte Costituzionale non ci ha detto dovete dare 18 miliardi, la Corte Costituzionale ci ha detto, guardate, tre cose: i soldi che si prendono all'interno del sistema pensionistico stanno nel sistema pensionistico, i sacrifici devono essere graduali e progressivi. Noi abbiamo applicato gradualità e progressività e abbiamo però detto una cosa molto semplice agli italiani: abbiamo questi 2 miliardi, li diamo a tutti indistintamente oppure li diamo più a quello che ha una persona? No, ma questa è stata la scelta politica che è stata fatta. Non penalizzare nessuno, lo dico. Però, No, ma è chiaro, qua però Mulè c'è anche da dire, appunto, visto che non abbiamo memoria, ma qualcuno a Mario Monti, che ha sempre avuto questa allure dello statista, eccetera, è andato mai a bussare? Perché è chiaro che Elsa Fornero è un pochino, adesso dirò una cosa che mi attirerà tutti gli strali, ma un pochino da capo espiatorio è passato, perché non è che Elsa Fornero si è chiusa in una stanza, ha fatto questa riforma, no? Ha messo la faccia, insomma, era il governo. Ma come dire, quella riforma venne votata dal Parlamento, bisogna come dire, contestualizzare quel momento, e tutti ricordiamo. Sì, ci dicevano del default, la crisi. Ricordiamo anche che quella è anche l'epoca dei contributi di solidarietà, ancora una volta su quegli italiani che, siccome guadagnano di più, dai a chi guadagna di più. E va bene, dopodiché ovviamente tutti si voltano dall'altra parte, ma anche Renzi si volta dall'altra parte, che come al solito dice ma io non c'ero, facevo il sindaco di Firenze. Ho capito, bello mio, però avevi un partito che era compatto a votare tutto quello che Monti diceva, e ancora una volta il primo ad avere memoria corta in questo caso è Renzi, e quelli che un tempo non furono renziani e che oggi si sono accodati al carro del vincitore. Il problema però è come dire, i numeri in questo caso, l'onorevole Taddei ha l'onestà intellettuale di riconoscerlo, quindi su questo non possiamo non trovarci d'accordo. Cioè, il problema dei problemi, ancora la spesa pubblica, cosa tagliamo e cosa non tagliamo, è un fatto che negli ultimi 7 anni la spesa pubblica è sempre aumentata, sì, è un fatto che nel 2014, quindi regnante il Fiorentino Renzi, la spesa pubblica è aumentata, le spese correnti sono aumentate, la risposta è sì, è un fatto che c'è stata l'incapacità di fare un segno meno davanti alla spesa pubblica, la risposta ancora una volta è sì. Da questo io misuro l'incapacità del governo di avere una linea diversa e discontinua rispetto al passato. Lo poteva dimostrare incidendo sulle municipalizzate, sulle centrali di spesa, ma voi lo sapete che ancora ci sono 35.000 centrali di spesa, che sono 35.000 piccoli centri. Quelle che Cottarelli voleva trasformare in 100. Peggio, e poi, peggio perché l'uno proprio alla fine di giugno di un anno fa i comuni si trovarono con il governo, deciso di rinviare l'accorpamento delle centrali di spesa. Bene, doveva entrare in vigore il 1 giugno del 2014, non è entrato, 2015 non è entrato, siamo arrivati a giugno 2015, le centrali di spesa sono sempre per la verità quelle. Insomma, il governo promette di tagliare 15 miliardi, lo vedremo nella prossima legge di stabilità come revisione della spesa. C'è il nuovo commissario Gut, che l'ha detto anche qui ai nostri microfoni. Vorrei però concludere con questo: professor Taddei, è vero che volete mettere mano alla riforma Fornero e quindi far andare in pensione anche prima chi lo vorrà? Renzi ieri ha detto, se una nonna a 62 anni vuol godersi il nipotino, deve poterlo fare. È vero che stiamo lavorando ad una proposta per favorire la flessibilità in uscita, cioè per fare uno schema che permetta alle persone di scegliere più con più flessibilità, quindi con più libertà, quando andare in pensione, però preservando l'equilibrio della nostra spesa pensionistica. Ora mi faccio giusto ricordare una cosa. In termini sia percentuali sia di spesa assoluta, negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, dalla riforma Fornero in avanti, la spesa pubblica per pensioni è sempre cresciuta in Italia. Lo dico per dire che o noi comprendiamo come paese nella sua completezza che sulle pensioni è comunque una parte di spesa che su cui la riforma ha semplicemente ridotto l'aumento della spesa, i cui benefici ha ridotto l'aumento, non ha ridotto il livello. Chiaro. Quindi i cui benefici noi cominceremo a vedere dopo 2020, i benefici diciamo in termini di spesa pensionistica delle riforme che abbiamo fatto, o noi riconosciamo questo, che questo vuol dire assottiglia i margini di finanza pubblica e quindi operiamo conseguentemente per fare in modo che in questo momento, io lo dico con massima chiarezza, secondo me la priorità, secondo il Partito Democratico, la priorità per il futuro del Paese stanno altrove, stanno nel riconoscere che ci sono delle cose strategiche, scuola, università, riduzione fiscale sul lavoro, che hanno la priorità assoluta per rilanciare il Paese, senza il quale noi non siamo in grado come Paese, come sistema Paese, di onorare i nostri impegni pensionistici in futuro. Siccome a me interessano i pensionati di oggi, ma anche i pensionati di domani, scusatemi, faccio una scelta responsabile. No, ma è chiaro. Poi d'accordo con noi stessi. O i tagli della spesa sono stati draconiani, per cui abbiamo strangolato gli enti locali che hanno dovuto alzare le tasse in tutta Italia. Chiaramente una narrativa che io trovo non è restituita di qualunque fondamento. Oppure la spesa pubblica è cresciuta senza abbrigliamento. C'è da dire che, insomma, la coperta quando è corta da una parte o dall'altra va tirata. Io intanto vi ringrazio. Filippo Taddei, voglio ricordare, responsabile economico del PD, e Giorgio Mulè è il direttore di Panorama. Non abbiamo finito questo argomento perché dopo avremo ascoltatori, avremo anche un avvocato, Fiorella Carloni, che aveva scritto a Repubblica dicendo in una lettera: io questi soldi non li voglio indietro, credo che a lei non arriveranno, e quindi ci dirà se in fondo è contenta di questa decisione. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Allora, dopo aver avuto Filippo Taddei e Giorgio Mulè, siamo con l'avvocato Fiorella Carloni, che saluto. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Di solito di una signora non si dice l'età, non so, però lei è in pensione. No, ho difficoltà, io ho 76 anni. Ha scritto una lettera a Repubblica in tempi non sospetti, cioè prima del provvedimento di ieri, aveva detto: io quei soldi, anche se ne avrei diritto perché mi è stata bloccata la pensione, non li voglio, teneteli pure. Perché aveva scelto così? Avevo scelto, confermo la scelta, tanto più dopo queste ultimissime decisioni. Per una ragione di dovere civico, per una ragione morale, per una ragione di equità, e perché la nostra Costituzione, tra l'altro, ha anche un articolo che sembra dimenticato da tutti quanti quelli che si fanno i conti adesso, e cioè che c'è l'articolo 81 della Costituzione che parla dell'equilibrio di bilancio, del rapporto tra entrate e spese, e che consente l'indebitamento soltanto di fronte a eventi eccezionali che vanno comunque diciamo votati a maggioranza assoluta dalle Camere. E lei aveva anche tutti scritto, questi lo dimenticano, quelli che adesso prendono una bella pensione, queste cose sono messe in seconda linea. No, ma tra l'altro lei, avvocato Carlone, aveva scritto in questa lettera: è giusto applicare la sentenza alle fasce davvero deboli o trovare forse i soldi per i giovani senza occupazione. Ma perché questo scontro generazionale un po' c'è, ognuno pensa a se stesso. Sì, questa è la verità. E siccome effettivamente io ho lavorato tutta la mia vita, ho versato i miei contributi alla cassa forense, ho svolto in maniera onesta e seria il mio lavoro, e quindi adesso prendo una pensione. E siccome non ho dovuto pagare notevoli contributi alla cassa forense in relazione al fatto che non sono un evasore, in quanto che ho lavorato molto con la pubblica amministrazione, per cui anche su 10 euro devi fare la fattura, conseguentemente i versamenti alla mia cassa forense sono stati molto elevati. Certo. Lei giudicava sempre nella lettera immorale che ridessero in questi momenti di conti pubblici in difficoltà a ridare i soldi, però insomma in fondo uno può dire da pensionato: ma sono soldi miei, cioè mi hanno tolto l'indicizzazione della pensione, quindi lo so, però diciamo la situazione complessiva del nostro paese, dell'Europa e del mondo intero, vanno considerate queste cose. Quindi alcuni diritti, insomma, c'è la necessità di tenere in equilibrio i diritti ma anche gli equilibri di finanziari, denari. Vogliamo fare la fine della Grecia? Non lo so. Ma allora lei, quando sente, non so, i politici che quando appena li si tocca il vitalizio, le cose, esatto. diritti acquisiti, sa che molti in virtù di questo dicono, allora chi sono io, il più fesso, che devo rinunciare alle cose? Il punto è che ognuno, ormai siamo in una fase di tali egoismi, diciamo così forti, che dimentichiamo quello che succede al nostro vicino. Allora, quando vediamo che consiglieri regionali che hanno avuto, secondo alcune decisioni prese, una riduzione dei loro vitalizi, hanno fatto ricorsi al TAR, sì. E io mi sento, come dire, mi sento non dire sconcertata e dire poco. Ecco perché ritengo immorale, anche perché questa gente, che io mi domando, che il lavoro fanno. È però interessante, perché sa, molti hanno la sua stessa reazione e dicono, quindi per questo ridatemi i soldi. Lei, pur avendo questa reazione, dice no, però io non li rivolgo indietro, perché io voglio essere migliore. No, io non li rivolgo indietro, io credo che si debba continuare a sostenere le fasce più deboli, sia dal punto di vista ovviamente di chi ha la pensione, sia da quelli che la pensione non ce l'hanno e non ce l'avranno nemmeno tra 10 anni, 20 anni. Guardi, perché il sistema ormai è tale per cui pensiamo a quanti giovani o anche di una certa età che sono con le partite IVA, quelli pagano il 20-25% di tassazione e la pensione. Avranno una pensione infima se mai ce l'avranno. La sua reazione, avvocato, è perfetta, cioè io non ho niente da commentare. L'abbiamo invitata perché ci ha molto colpito questa sua lettera di Repubblica, e che lei ha spiegato bene, insomma, qui perché aveva già deciso di non volere quei soldi che non le verranno, e lei conferma, dire è giusto così. Io intanto la ringrazio, avvocato Fiorella Carloni. Vorrei sentire Carla da Torino, che ci ha chiamato. Carla, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare un'osservazione sulle fasce deboli e su quelli che prendono pensioni basse, che hanno lavorato nella pubblica amministrazione 10 anni praticamente, perché il riscatto degli anni di laurea, le gravidanze eccetera, e poi sono andati in pensione con 15 anni, prendono 800 euro e quindi avranno le aumenti, e i contributi pagati sono minimi, quasi nulli, diciamocelo. Ecco, volevo fare questa osservazione. Va bene, la ringrazio per questa osservazione, Carla da Torino. Andiamo al traffico. Allora, siamo qua alle 8:48 minuti. Ieri abbiamo raccontato dalla stampa, vogliamo cambiare tema, la storia di un connazionale, un italiano che vive a Budapest da qualche anno, che in pratica, per il fatto di avere sfilato in una parata di orgoglio omosessuale, avere preso in giro in modo ironico, ma evidentemente non molto gradito, un gruppo di motociclisti, un gruppo di estrema destra in Ungheria, e per questo vive davvero con una posso dire condanna a morte sulle spalle. Io saluto Andrea Giuliano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, salve. Posso dire, cioè almeno l'ha dipinta così la stampa, condanna a morte, nel senso minacce di morte e con l'obbligo di cambiare più o meno casa varie volte e vivere da braccato. È davvero così? Sì, condanna magari no, perché non c'è ancora la pena di morte in Ungheria, nonostante cerchino di esatto, penso che il premier Orban vorrebbe ripetere. Sì, avete detto sì, è una buona espressione, come dire. Sì, ho ricevuto centinaia di messaggi contenenti minacce di morte, e ho anche mi hanno messo anche una taglia sulla testa per per non so, per qualche giorno prima di toglierla dalla rete, perché credo che si siano accorti che era un attimino illegale. Cioè lei ha sfilato in questa parata, ha preso in giro questo gruppo di motociclisti che la stampa definisce neonazisti. Adesso io non lo so se questo lo sono. E da quel momento il suo nome, cognome, il suo indirizzo di casa è finito ovviamente pubblicamente diffuso da queste persone, col concetto di dire andate a fargliela pagare. Sì, non solo, anche l'indirizzo di dove lavoro, anche una foto proprio del mio appartamento, una foto di una foto che ritrae me che vado a lavoro, quindi cioè tutte le cose possibili e immaginabili per cercare è successo anche che qualche volta si è trovato davanti a casa qualcuno che non voleva certo scambiare due chiacchiere con lei. Sì, ma più che altro davanti al lavoro, a casa anche, specialmente nel primo giorno, perché erano lì proprio per fare anche le foto e per cercare, sì, insomma, comunque anche di bloccarmi, ma non ci sono riusciti, meno male. E però lei vive così braccato. Ma senta, ma le autorità, voglio dire, la polizia, eccetera, non, in Ungheria non la proteggono? Il problema è che qua appunto si tratta di una... Come dire, io sono forse una delle pochissime persone che anziché far finta di niente quando, come dire, metaforicamente far finta di niente quando passa il bullo, sono una delle poche persone che di solito non si fa problemi e reagisce. A questo né i bulli, quindi né i neonazi né la polizia sono preparati. Per quanto mi riguarda non ho molta fiducia nelle forze di polizia, sì. Così in genere, diciamo, con tutte le cose. Ma di cosa l'accusano, cioè questi gruppi? Perché l'hanno marchiata, come dire, questa persona la deve pagare? Perché le ha prese in giro? È vero che dicono offende i cristiani? Perché, cioè, ce l'hanno con lei? Per il fatto di essere omosessuale, basta? Quello credo che sia una cosa, ce l'hanno praticamente con chiunque sia omosessuale, e poi non solo, insomma, ce l'hanno con chiunque non sia d'accordo con loro e con le loro cacchiate, se così si può dire. Quello che ha fatto scattare il tutto è il fatto che io abbia fatto una parodia, diciamo nel loro stile anche volgare, becero, insomma, che praticamente io gli abbia ritornato... Sì, perché lei ha sfilato con la loro bandiera. Non sono abituato. Certo, lei ha sfilato con la loro bandiera coperta da un fallo, diciamo così, no? Come una parodia. Più o meno. Ho fatto la parodia di uno dei tantissimi gruppi, perché riusciva molto bene, ma ce ne sono tantissimi di gruppi neonazisti. Comunque io ho fatto la parodia di uno dei loro loghi, quindi uno di questi movimenti. Sì, sì, e ho cambiato il loro nome, insomma, si chiamano motociclisti del sentimento nazionale, io ho cambiato la cosa, ma insomma, buongiorno a tutti, devo dire quello che ho scritto, quindi vabbè, ho scritto succhia cazzi dal sentimento nazionale, poi ho cambiato il loro simbolo, che aveva appunto la grande Ungheria con una moto stilizzata al centro, sì. E ci ho messo appunto un fallo, diciamo. Un fallo nero, sì, diciamo un fallo. Sì, insomma, a loro questo assolutamente non è piaciuto. Senta, ma sono in conclusione, ma l'idea di lasciare l'Ungheria lei è mai venuta in mente? Ma io in caso dovessi lasciarla non lo farò per via delle minacce, perché non mi rifiuto di avere paura di queste persone, sono qua per fare lottare per i miei diritti e non mi sono mai ritirato di fronte ai bulli e non lo farò neanche adesso. Neanche stavolta. Va bene, in bocca al lupo, che devo dire, la ringrazio Andrea Giuliano per essere stato con noi, ci ha raccontato questa storia, cosa vuol dire anche essere perseguitato di fatto in Ungheria, questa storia era stata raccontata ieri dalla stampa, mi aveva molto colpito. Fermiamoci qui per oggi, torneranno anche i nostri lavoratori da domani, ma c'erano tanti temi in questi giorni, allora con Carmelo Lauricella in regia e Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, vi diamo appuntamento a domattina 6:30 puntuali.